Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Rock Wave, buonasera. Ok, buonasera da Rockway, buonasera da Maurizio Calzavare, da Michele Tosoni in regia e buonasera ai 12 corde, bentornati. Grazie, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Abbiamo trovato il vostro disco 2 anni fa circa, vi ricordate? Un anno sì, mezzo fa? Forse prima. No, l'album è più vecchio, però forse noi ci siamo visti un paio di anni fa. Per presentare il primo album che è Il Viaggio. Esatto. Adesso arriviamo a un secondo album, La Carovana. La Carovana. È arrivata. Ma è una cosa molto positiva che i 12 corde, che è un gruppo che viene da Argenta, è vero così? Provincia di Ferrara. Sono stati bravi, coraggiosi e hanno inciso un secondo album per una band emergente, una cosa molto positiva secondo me. Sì, dai. Siamo arrivati al secondo, questo addirittura non autoprodotto come il primo, ma con un'etichetta alle spalle. Bene, questa è una cosa molto molto interessante, quindi. Una distribuzione, una vera distribuzione. Una distribuzione nei negozi, insomma. Adesso, siccome è uscito ieri, poi dopo ne parleremo. Però. Sì, questa è un'anteprima assoluta per Rockway, siamo molto contenti, onorati di questo. Adesso la prima vera emozione sarà quella di vederlo nei negozi di fianco a chissà chi. Infatti insomma, mi munirò di fotocamera e poi andrò a fotografare. Stasera siete in due al posto dei quattro. Roberto Romagnoli è qui davanti, suona la chitarra, e Andrea Bandi che suona il bellissimo violino. Quanti anni ha quel violino, Andrea? Questo violino è stato fatto nel 90, 1990. Quindi non è vecchissimo, però però comunque si comporta bene. È più giovane di me. Quello sì. È anche più giovane di me, assolutamente. Bene, una bella esperienza fare un secondo disco, Roberto, un'esperienza faticosa sì, ma anche positiva, da feeling, da piacere. Da molta carica, perché appunto l'uscita di un disco dà sempre la spinta a nuove idee, provare nuove strade per quello che tentiamo di fare nel nostro piccolo. E poi una grande emozione vedere proprio l'uscita, la nascita di questo prodotto che racchiude in sé tante idee, tante serate, tante prove, tanto di tutto. Insomma. Dobbiamo sottolineare una cosa, Roberto, che Il Viaggio, il precedente album, poteva essere una raccolta di cose che avete fatto durante la vostra carriera musicale, mentre questo nuovo Carovana raccoglie le ultime cose che avete fatto. Perché le idee del Viaggio, appunto del nostro primo disco, nascono attorno al 2005 e nel 2007 è uscito il disco. Poi insomma abbiamo messo insieme il gruppo col quartetto, insomma aggiunto a quello che era il duo acustico, aggiunto basso e batteria, e poi appunto negli ultimi 2 anni direi, nuove esperienze, nuove idee e quindi nuove canzoni e alla fine insomma. Sì, dobbiamo sottolineare che la band come 12 corde nasce come duo, Roberto ed Andrea. Esatto, come diciamo prima, i soci fondatori. Poi le cose si sono sviluppate, sono allargate, è arrivato un basso, è arrivata una batteria che ha dato un po' di spinta ritmica al discorso musicale. Assolutamente, perché per quanto sia col duo acustico, insomma, dopo tanti anni, ormai ce la intendiamo bene, non neanche più bisogno di parlarci, ci si capisce con uno sguardo quando vogliamo. E quando fare siete sul palco, come vi capite voi quattro? Con uno sguardo, Andrea, cosa dici? Beh, direi di sì, dai. Sì. In due assolutamente. Noi due, gli altri magari delle volte forse non basta lo sguardo. Un calcio, dai. Visto che stanno dietro. sono un po' più giovani di voi forse musicalmente, o no? Come età? Bassista. Io stavo pensando a me. Riprendo a te, sì. Ma basta, giovani come nel senso che sono entrati dopo nella band? Sì, quello sì. Sì. Quindi hanno almeno 12 corde parlando, sono più giovani. Esatto. Un'esperienza leggermente inferiore alla vostra, praticamente. Quindi è bello, quindi avete deciso di fare questo nuovo album, avete avuto la spinta per fare questo nuovo album e via. È una bella cosa, è una cosa positiva. La fatica, dopo che è finito tutto quanto, c'è stata fatica, c'è stato un rilassamento oppure no? Ma no, No. Direi di no, anche perché siamo veramente freschissimi. Abbiamo fatto la presentazione del disco 2 sere fa. Quindi è una cosa recentissima. Assolutamente, siamo ancora in ballo con un video, col videoclip, con le distribuzioni. E quindi insomma siamo ancora nel pieno, diciamo, dell'uscita discografica. Per cui rilassamento per adesso non esiste. Però è una bella cosa. No, va bene quando verrà fuori nei negozi è una cosa meravigliosa. Certo, sì. Da sensazione, una forte sensazione. La carovana là davanti. Beh, parlavamo prima con Roberto Baldi, che è qui presente, che curerà anche lui, darà una mano alla trasmissione nella presentazione della bellissima copertina che avete fatto. Cioè una copertina che dà nella facciata A, si può dire questo, una bicicletta nuova, nella facciata B c'è una bicicletta vecchia. Come mai, Roberto, e come mai, Andrea, questa idea delle due biciclette? Io adesso non ho ideato io il discorso della copertina, però penso che ci sia un elemento, diciamo, di tradizione e di novità. Esatto, no, per andare appunto per creare il nuovo, cioè guardare comunque quello che sono state le origini e quello che certo, una cosa è il passato. Per creare, quindi la bicicletta nuova e la bicicletta esatto, per creare il nuovo arrugginita. Bisogna ricordare che cos'era il vecchio, che e soprattutto la bicicletta. E la bicicletta, un elemento di nostra tradizione da buoni ferraresi, insomma. È vero. Ferrara è famosa per le biciclette. Città, non so se sia nella città dove ci sono più biciclette di tutti, però quasi ci siamo. Piste ciclabili ce ne sono tante. Sì. Benissimo. Pare che sia. Dimmi. Sì, come si dice? L'Amsterdam. L'Amsterdam dell'Italia. Dell'Italia. Una cosa molto parlando positiva. Di biciclette, non di altro. Parliamo di biciclette, ma è una cosa molto molto positiva. Sono 22:13, assolutamente tutto in diretta. Cominciamo ad aprire la nostra finestra. Abbiamo scelto delle tracce anche da disco, poi chiaramente ci saranno le tracce suonate, le canzoni, le song. Cosa avete scelto, Andrea e Roberto, per iniziare? Ti ricordi la traccia? Di quelle del disco? Del disco. Allora partiamo con un brano subito in dialetto, bene, così per partire belli, belli carichi. Questo brano si intitola Salta So. Che vuol dire? Che vuol dire salta su. Salta su. È praticamente un'incitazione al pubblico a lasciare perdere tutto quello che è stato nella giornata, quindi lasciare stare il lavoro, i pensieri. Arriva il gruppo, inizia a suonare, quindi non bisogna pensare ad altro. Bisogna muoversi. Esatto, bisogna assolutamente muoversi. Ok, lo sentiamo allora. Amighi, ancora una volta, venerdì sera, nuve in quert, fuori le scurla, attenti a spas, nota stasera screntarà. Sleva il rumor, due attenti scori, veci barrieghi, grida dal bar, i ragazzi ante partera, ora la festa comincerà. La sasterito pensier, brisa scora dal lavor, versa dal ven in tal bichir, che i musici sei e tre a river. Che so strumento al basso al violino e do chitar, la sacra musica la viata, do ti è pronti par con terre. Oh, sto, tre, hey! Un capeccia sol tambur, do chi canta, tre chi va la quattro, gli ei amici bevi fece mani, selta so sta danza, ta preca tutto il mondo, ancora una volta fermerà. Capezza sul tamburo, do chi canta, tre chi va la quattro, gli ei amici bevi fece mani, selta sosta danza, da preca tutto il mondo, ancora una volta sfermerà. Pensiero, brisa scora dal lavoro, versa dal venin tal bicchier, tutta sei pronti par con ter. Un pezza sol tambur, do chi canta tre chi va la quattro, gli ai amici bevi pezza mani selta sosta danza. Treca tutto il mondo, ancora una volta sfermerà. Un capeggia solta a bordo, chi canta tre, chi va la quattro, gli ai amici bevi pece, mani selta sosta danza. Treca tutto il mondo, ancora una volta sfermerà. Un capeggia solta a bordo, chi canta tre, chi va la quattro, gli ai amici bevi pece, mani selta sosta danza. Treca tutto il mondo, ancora una volta sfermerà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Gli ascoltatori non lo sanno, ma Andrea provava mentre il pezzo finiva, provava col violino, perché è giusto, live è questo, Rock Wave è anche questo, il provare mentre il pezzo va. Viva, questo... viva la giga. Una giga, finale è una giga. In classica. Realtà stavo controllando se era accordato. Ah, perché perfetto. Perché con queste temperature da metà luglio... È vero, l'umidità provoca degli... sì, scorda gli strumenti, certo, è vero Andrea? Sì, sì, sì. Balzi di temperatura fa un brutto scherzo. Poi c'è una temperatura, c'è un'umidità spaventosa, sì, stasera qua a Padova, non so ad Argenta se sia così. Uguale. Uguale. Uguale, forse un po' peggio. Benissimo. Ok, questa era una giga, Roberto. Perché una giga? Perché l'Irlanda è una è sempre nel vostro cuore, l'Irlanda. Sì, per quanto si abbiamo cercato in questo disco di affrontare anche realtà musicali anche diverse, abbiamo addirittura affrontato una tarantella in questo disco, però insomma alla fine l'Irlanda è sempre nel cuore, la musica irlandese c'è sempre, nei nostri concerti, nella nostra mente c'è sempre. Perché fa muovere, fa divertire. Fa coesistere, fa gruppo, quello è importante. Sì, assolutamente, proprio l'idea di alzarsi e ballare fa parte insomma della realtà irlandese. Abbiamo citato i nomi degli altri due componenti. È vero, quello è fondamentale. Assolutamente salutarli. Maestro, allora, salutali tu. Al basso Claudio Benvenuti. Ecco un po' di clac sotto, va bene. Alla batteria Fausto Gherardi. Perfetto. Che importanza ha avuto la batteria e il basso nello svolgimento degli ultimi anni della band, periodo di adesso praticamente? Vabbè, da quando abbiamo deciso appunto di scrivere pezzi nostri, l'esigenza è stata subito quella di avere una base ritmica. Avremmo potuto anche andare avanti in acustico, come abbiamo fatto insomma per tanto tempo, però... Se vogliamo proprio il discorso anche della musica irlandese, quindi proprio l'idea di trasmettere dell'energia, del movimento al nostro pubblico, sì, ha fatto sì che insomma, l'esigenza era quella di avere anche una base ritmica, certo, per riempire. Certo, tu hai citato, mi ricordo non era spento, i Pogues. Io ricordo i Chieftain, aveva una base ritmica, non era proprio una batteria, però aveva una percussione, io ricordo. Sì, beh. Chieftain è una formazione molto allargata, decisamente. Sì. Adesso purtroppo per vicende se n'è andato qualcuno di importante, è un po' ristretto il discorso, però all'inizio era una formazione molto grande, molto allargata, sì, e la ritmica non proprio batteria, ma percussioni c'erano. Beh sì, l'idea proprio irlandese della musica suonata nei pub non prevede la batteria per forza, certo, per certo, forza di cose. Di posti, e quindi utilizzano questo strumento a percussione, il boran, esattamente, esatto, che ci può suonare anche da seduti e dà un certo fascino. una caratterizzazione della musica loro, c'è poco da fare. Assolutamente, perché è proprio uno strumento che pochi lo sanno suonare come loro, perché esatto, anche lì non è solo il battere sopra questo tamburo. Bisogna saper battere, esatto, ovviamente. Ok, 22 e 21, adesso facciamo una cosa fondamentale, battiamo musicalmente parlando, suoniamo allora. Che cosa, Roberto e Andrea? Beh, abbiamo parlato di Carovana e quindi insomma suoniamo in acustico, quindi diverso da quello che sarà nel disco, di quello che è nel disco, il brano che dà il titolo, quindi La Carovana. La title track praticamente. Title track, come si dice adesso. Carovana anche quest'anno è tornata, piena di bici, atleti e maglie colorate, e ancora per un mese unisce l'Italia, e unisce i bar, le piazze, i vicoli e le strade. La ricordo più di 20 anni fa, insieme a mio nonno a San Pellegrino, gridando alle Saronie e poi a San Marino, correndo dietro a Mario alla sua maglia rosa. E poi c'è un altro passo ancora da passare, e poi c'è una volata ancora da volare, e poi un altro arrivo a cui deve arrivare, e la carovana in fila ancora passerà. Quanti chilometri di strada consumati, quante le lacrime e il sudore versato, quante salite lasciate alle spalle in questo secolo di storie su due ruote. E la carovana anche quest'anno è tornata, le stesse bici, le stesse maglie colorate, ma sono ancora qui sul bordo della strada che aspetto lo spuntare di una maglia rosa. E poi c'è un altro passo ancora da passare, e poi c'è una volata ancora da volare, e poi un altro arrivo a cui devi arrivare, e la carovana in fila ancora passerà. E poi c'è un altro passo ancora da passare, e poi c'è una volata ancora da volare, e poi un altro arrivo a cui devi arrivare, e la carovana in fila ancora passerà. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Sì, abbiamo parlato della carovana, quindi questo riferimento ciclistico. Ma sei andato a vedere qualche volta il Giro d'Italia, Roberto? Sì, sì, sì, assolutamente. Quello che si racconta in questo brano. Sono tutte cose vere. Esperienze reali, sì, vissute in prima persona. Cosa sì, si sì. sente vedere questa carovana, questi ciclisti che faticano anche sui monti, sulle montagne, del San Pellegrino? Sì, non sono un grosso uno che segue spesso gli sport, però il ciclismo mi appassiona proprio per il fatto che vedi della gente che veramente insomma fatica per arrivare fatica molto il gregario, cioè il capitano è davanti, sì, ma il gregario fatica moltissimo per portare l'acqua, come si diceva una volta, al capitano. No, infatti arrivare a capire poi anche le tecniche del ciclismo e come funziona una squadra di ciclismo durante una grossa gara a tappe come il Giro d'Italia, il Tour de France, insomma, è proprio bello capire come tra di loro che si intendono. Qua, esatto, come devono intendersi. Musicalmente il pezzo l'hai scritto, tutto te musica e parole o Andrea ti ha dato una mano? O gli altri della band? Questo brano, oddio, non mi ricordo. Questo brano, gli hai scritti. Allora, diciamo, puntualizziamo. Esatto. Allora, in questo caso, questo disco praticamente musica e testi li ha scritti tutti Roberto, eccetto una cover di Pino Masi che è la ballata di Claudio Varalli, per Claudio Varalli. Diciamo che vabbè, lui comunque avendo scritto tutto, ovviamente uno quando suona ci mette anche un pochino di riff magari del violino nell'interpretazione, però ecco, questo disco a differenza del Viaggio che l'abbiamo scritto diciamo un po' più a quattro mani, diciamo, nel senso che alcuni brani li ho scritti io, altri ha scritto lui, altri io ho scritto la musica e lui il testo e così via, insomma. Sì, sì. No, viceversa no. No, non è capitato. No, viceversa non è invece capitato. Questo qua l'ha scritto quasi totalmente lui. Sì, diciamo sì. No, lui tutto. Ah, tutto quanto lui. Sì. E tu scrivevi il testo e scrivevi la musica. Poi, quando vi siete trovati, gli arrangiamenti come sono nati? Beh, gli arrangiamenti... È un po' difficile il discorso. No, è facilissimo in verità, perché ci sono delle, ormai, come penso tutti i musicisti sappiano, delle tecnologie al giorno d'oggi, certo, che... spesso andavo a presentavo al gruppo direttamente il pezzo già finito. Ah, ok, già ho capito. Con gli arrangiamenti già fatti, anche perché suonicchiando un po' basso e batteria, gli presentavo già il provino già mezzo, cioè, quindi mezzo suonavi finito. Tutti gli strumenti. Sì, poi ovvio che dal vivo, a forza di suonarli, prendono pieghe diverse alla fine, anzi, a volte molto più incalzanti magari rispetto a quello che si era provato fino a quel momento. Quindi ovvio che siamo arrivati a registrare il disco con delle idee che comunque anche come arrangiamenti erano un pochino variate rispetto a quelle quindi che il live è decisamente leggermente diverso rispetto al disco ufficiale, cioè come voglio dire, qualche volta ho chiesto anche ad altre band, c'è la possibilità durante un pezzo, non so, mettiamo la carovana, Andrea vuole fare un piccolo assolo, vuole andare fuori dello schema, c'è la possibilità o deve essere tutto entro lo schema? Questo voglio dire. Stiamo cominciando a creare le possibilità. Ecco. No, spiego per quelli che poi magari non capiscono. Quando andiamo a suonare in due in acustico, ognuno si può prendere in qualunque momento le libertà che vuole. Questo perché alla fine, come dicevamo prima, basta uno sguardo che ci intendiamo. In quattro è un po' più difficile perché alla fine le strutture dei pezzi sono quelle. Però insomma cominciamo ad avere anche l'intesa che serve anche per permetterci. Quindi live su live. Esatto. Benissimo. Ok, 22:29, siamo assolutamente in diretta, stiamo conversando piacevolmente con il 12 Corde, presentando il loro nuovo album La Carovana, con Michele Tosoni in regia e Maurizio Calzavara al microfono. Sentiamo un altro pezzo, cosa dite ragazzi, dal disco stavolta. Sì. La traccia te la ricordi? No. Che traccia è? Numero 10 ci dicono. Michele ci dice la numero 10. Allora, l'abbiamo appena nominata, per cui maestro presentala. Ma io non lo so a memoria le tracce, devo dire la verità. Comunque forse per Claudio Varalli. Esatto, è lei. È proprio esatto, quella. Quindi è una cover di questo cantautore. Cantautore degli anni 60, canta storie, ancora attivissimo oltretutto. Ce lo cercate su Facebook. Lo trovate. Quindi l'unica cover del disco di questo Pino Masi, di questo cantastorie, per Claudio Varalli. Ok. Il compagno Varalli, passando da Piazza Cavour. Con altri compagni, di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle canaglie fasciste del Fuan che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia. Ti ho visto, la foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra, sembrava una foto di guerra. Eppure era solo Milano. Ti ho visto, la foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. E c'è chi non sa che la lotta diventa ogni giorno più dura, e c'è chi lo sa ma paura e canta sempre più piano. Lascia piegare dai neri e dai democristiani. C'è chi non aspetta domani per dire la sua verità, e c'è chi ci lascia la vita come hai fatto tu a 18 anni, ucciso dagli stessi tiranni che ci rubano la libertà, che ci rubano la libertà. Ti ho visto, la foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. Ti ho visto, la foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano, eppure era solo Milano. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, stiamo piacevolmente conversando con le 12 corde. Abbiamo sentito un pezzo che era l'ultimo. Sono della... dei retroscena. Che beh, ma possiamo anche dirlo. Possiamo dirlo. Dobbiamo salutare un tuo allievo, Andrea, mentre parlavi. Sì, perché appunto parlando di questa canzone, insomma, si parlava da dove è venuta l'idea di metterla nel disco. E questo nostro amico, diciamo, che si chiama Donato, e che cogliamo l'occasione per salutarlo, anche se io l'ho già salutato prima. Lo hai salutato fuori dal microfono. Pensando di essere in diretta, invece, va bene. E niente, allora appunto Roberto, cogliendo questo suggerimento di Donato, appunto penso abbia ascoltato... Si è ascoltato il pezzo originale... Mm-hmm. Di Pino, allora? Esatto, di Pino Masi. Pino Masi. Pino Masi, poi esatto. L'hai coverizzato nel senso positivo del termine. Sì, cioè. Sì, ho preso il testo e la struttura, la linea melodica del della parte vocale, sì, della parte vocale, e niente, ho aggiunto questo riff irlandese che fa sempre bene alla salute, secondo me. Esatto. Allora fa muovere, fa sì, però Pino Masi l'ha ascoltato e ci ha dato la benedizione. Allora te l'ha detto lui, quindi ti ha dato l'imprimato, potevi farlo. Benissimo, allora salutiamo un momento il nostro direttore artistico Alberto Prisco, stasera vi ha voluto qua fortissimamente, ha fatto benissimo. E salutiamo anche la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, sono tre nostre ascoltatrici assidue di Rockway del mercoledì. Ciao a tutti, ciao, ciao Alberto. Alberto. Ciao. Allora, benissimo, sono le 22:36, pardon. Allora suoniamo qualcosa. Cosa suoniamo, ragazzi? Oh, andiamo con un altro brano in dialetto. Il secondo brano del disco in dialetto. In dialetto. E all'op, sentite. Cioè, cosa vuol dire? Allop? Il lupo. Il lupo. Sì. Chi ha paura del lupo cattivo, praticamente, dice questo. Le fredde le scur e an sved un accident in la nebbia par la strada a spolbrisa ster tranquil parché in tal paese gli ha detto clerivello allo allo cat celta dos ad magna allo cat frega i tu baioc allo che con il suo chat strega allo bac porta bestia allo allo cledria dalla tu porta allo plesso da dal tu let al celta fura e con una paca in collo cativa con passate in tedes clerivello allo Dona si scur, in vol brisa l'op in vir, gli è spari soldi incisa, a snios clestello, dove fini all'ustel, a strova più un puten, la venti de fer quel, a ste, fer furallo. Allo! All'op cat celta dos ad magna, all'op cat frega i tu baioc, all'op che con il suo chat strega, all'op ac porta bestia, all'op, all'op ledria dalla tu porta, all'op le sota dal tu led, al celta fura e con una paca in co, all'op ad coppa, all'op calga paura scapa, all'op ita distinto un curtel, all'op piadet cal se nascosta, all'op dai calcia pena, all'op, all'op che discan le brisa furba, all'op che dischi l'anca te, all'op la fatna brutta Fena Sam Rousse Materallo Alla ritmo del delino lupo non c'è più salta al ritmo del delino lupo non c'è più se questa musica poi caccia via le tue pure se continui a ballare il lupo più non tornerà alla ritmo del delino lupo non c'è più salta al ritmo del delino lupo non c'è più le tue paure se continui a ballare ma l'op cat celta dos ad magna l'op cat frega i tu baioc all'op che con il suo chat strega all'op ac prota bestia all'op all'op ledria dalla tu porta all'op le sota dal tu led al celta fura e con una paca in co all'op cativa co passate in tedes cle torna all'op Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Dunque, Roberto Romagnoli, chitarra acustica, e Andrea Bandi al violino, in rappresentanza delle 12 corde. Gli altri, il bassista e il batterista, sono a casa, ma ci stanno ascoltando via internet, chiaramente. L'uso del del dialetto, Roberto, perché è fondamentale l'uso del dialetto in determinate situazioni? Sì, è fondamentale. Infatti, come ti dicevo prima, la famosa domanda a cui non so dare risposta. No, in verità so dare risposta. Perché faccio sempre questo paragone che mi è stato raccontato e che so bene perché ho vissuto anch'io. Tanti artisti famosi, anzi famosissimi, per scrivere i testi delle loro canzoni cosa fanno? Hanno un giro di accordi con la chitarra e ci cantano sopra qualcosa in un inglese maccheronico. Certo, certo. Perché sta bene, si sente bene. Esatto. Questa americanizzazione che abbiamo dentro ormai, insomma, e quindi gli viene bene fare i testi in questo modo. E secondo me il dialetto, nel mio caso il dialetto argentano, è assolutamente musicale, per cui come loro fanno questa cosa utilizzando un americano strascicato, a me viene bene così. Vengono fuori delle frasi in dialetto, così in maniera assolutamente naturale. Poi, come dico sempre, perché è giusto, non mi viene benissimo il dialetto argentano perché non ho proprio delle origini argentane, e quindi il maestro poi mi corregge i testi, te li mette a posto. Perché bisogna spiegare anche la particolarità del dialetto di Argenta, perché me lo spieghi, sì. Il dialetto di Argenta non è né il dialetto ferrarese, né il dialetto bolognese, neanche il dialetto romagnolo, bensì Argenta, dove è situata Argenta? Praticamente è proprio a metà strada tra Ferrara e Ravenna, diciamo, ecco, sulla statale 16. Famosa statale, ecco. 16. è un dialetto praticamente che è un po' come si dice? È un dialetto bastardo, possiamo dirlo. Esatto, un dialetto bastardo, cioè un mix di questi tre dialetti, diciamo, un miscuglio di questi tre dialetti che sono il ferrarese, il bolognese e il romagnolo. Diciamo che è un ferrarese con una sonorità un po' più romagnola, sì, diciamo. Sì, sì. Perché Guccini ha citato la statale 17, voi avete la statale 16. La statale 16. Appunto, mi pare giusto che sia Ferrara Ravenna, Mi pare giusto che sia così. Quindi il dialetto è particolarmente, ha una caratteristica. Da qualche chilometro dopo si parla già in modo diverso. Sì, praticamente abbiamo delle frazioni subito attaccate ad Argenta, dove diciamo 4-5 chilometri a nord di Argenta si parla già romagnolo, a 4-5 chilometri a sud si parla già, no, al contrario. Si parla ferrarese, a sud romagnolo e ad ovest bolognese, perché sì, solo sì, che così, si vada. Sì, ma è così, è una caratteristica non solamente della Bante Posta, sì, anche, sì, della sì, anche nostra, da altre, certo. Tante altre regioni, c'è questo punto di appoggio fondamentale anche. È un'immagine della gente di quel posto, cioè si parla così e basta. No, infatti, va infatti. Bene. Ok, e si parla, ma anche si ride, si scherza mentre si canta, ma che pezzi simili, Roberto e Andrea. Sì, beh, poi non parliamo durante le prove. Cosa succede durante le prove? Insomma, parodie dei pezzi. Abbiamo anche vari interpreti, ospiti. Sì, spesso mi viene da fare i pezzi cantando come Guccini, Battiato, Guccini, Vasco. Un dialetto diverso anche Guccini, sì. Chiaramente, lui che è di un'altra parte. Sì, lui è più modenese, chiaramente. Sì. Però insomma, mi viene da infilare un po' tutti i personaggi durante i pezzi, durante le prove. Ho capito. E le prove cos'è? Come vengono fatte le prove per i 12 corde? Come vi organizzate? Oh, fortunatamente il nostro batterista si è sposato e ha preso casa in mezzo a campagna, in una splendida zona a 10 km più o meno da Argenta. E c'è solo lui in quella. Esatto. E quindi prima. Andate spesso là a fare. Sì, prima le prove le facevamo in una sala della nostra scuola di musica dove insegniamo, mentre adesso invece ci siamo sistemati bene. In una camera della casa di campagna di Fausto, del batterista, per cui insomma ci sentiamo un po' più a casa nostra. Quindi dobbiamo studiare una cosa: voi insegnate musica ai bambini, ai ragazzi? Sì. È il nostro lavoro principale. Diciamo. Perché come si sa, suonare è fatica. Fatica da campare, suonare solamente. Sì. Anche se ci si prova, no? Anche perché d'estate, comunque, con le scuole chiuse, è principalmente il nostro lavoro, proprio certo, è quello, la nostra attività di suonare. Ma quanti concerti fate d'estate? Tanti, vero? No, sì, ma ne fate. In media, dico bene se dico tra circa, diciamo, le 15 serate sì. al mese. Ah, sì. Però nei mesi proprio luglio, diciamo luglio sì. e agosto, ecco. Piene. Cioè serate cosa voi intende? Intendete suonate un po' di tutto o suonate il vostro repertorio? Qui ci mettiamo anche il discorso del duo. Ah, ho capito. Quindi tante serate sono diciamo 12 corde duo, acoustic duo, quindi quando siamo solo in due facciamo più cover. Ogni tanto comunque mettiamo anche qualche brano nostro, però prevalentemente facciamo le cover. Ho capito. Però anche qualche brano vostro sì. Lo mettiamo, sì. E soprattutto ci teniamo a dire che le cover che facciamo non sono quelle sempre solite. Non è il pezzo del momento, ma sono comunque cover ricercate, intanto brani che ci piacciono. Insomma, non facciamo un brano solo perché. Ma ci sono anche chi fa per il pezzo del momento. Quasi sempre capita. Non sputiamo addosso. No, assolutamente per carità. Però sì, però, spesso è così. Però cover ricercate è già diverso da cover normali, secondo me. Ricercate sì. come cosa? Cover ricercate vuol dire che comunque insomma il nostro repertorio medio va da Simon Garfunkel, De André, Bob Dylan. Dylan, poi avete detto che fate Battiato, la versione di Mr. Tambourine, la versione di Birds. Quindi insomma non facciamo proprio il pezzo del momento, anzi non lo facciamo proprio. Bene, una cosa molto positiva. Mi dispiace per chi lo fa, però sì, io ho questa idea. Ok, 22:47, un altro pezzo da disco, ti ricordi che traccia abbiamo messo? Adesso il regista ci ecco. 5. Bravo Michele. Guardie e ladri, non lo facciamo dal vivo perché è l'unico brano dove abbiamo inserito la chitarra elettrica, che è una novità anche per i 12 corde. Abbiamo tentato questo esperimento e quindi ve lo facciamo sentire da disco perché sì, qua non potevamo farlo. Guardie e ladri. Ok. I corpi a terra sono stracci che nessuno laverà. Resta l'eco dei cori tra le urla, i clacson e le sirene. Per le vie gli striscioni e il sangue li colorerà. Scappa via, vai, corri e non voltarti che il fucile è dietro di te. Passa gli anni, governi e le generazioni, ma la storia si ripeterà. Scappa via, vai, fuggi e non fermarti che c'è un colpo pronto per te. Se gli piace giocare a guardie e ladri e si sa già chi vincerà. Aderia, Praga, Genova, in piazza Pechino, a Soweto, Baghdad e Parigi, a Berkeley, ma chi pagherà? L'unica cosa da fare è avere gambe svelte e pronte a scattare. Stai con gli occhi aperti, amico, finché il vento cambierà. Scappa via, vai, corri e non voltarti che il fucile è dietro di te. Passa gli anni, governi e le generazioni, ma la storia si ripeterà. Scappa via, vai, fuggi e non fermarti che c'è un colpo pronto per te. Se gli piace giocare a guardia e ladri e tu sai già chi vince, sai già chi vince, sai già chi vincerà. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, l'inserimento dell'elettrica è una novità, però può essere una novità che potrebbe anche andare in porto. Sì, sì. Almeno nei live. È una novità per il disco, perché comunque appunto fino a adesso non l'avevamo mai utilizzata. Dal vivo comunque... L'ha fatto anche Bob Dylan, sì, quindi anche lui ha sfatato. Ha dato la svolta, famosa svolta. Infatti. No, però dal vivo la stiamo già utilizzando già da un paio d'anni, perché soprattutto alcune cover che facciamo, appunto citavo prima mentre fuori onda, tipo il ballo di San Vito, le facciamo un po' più cattive con l'aggiunta dell'elettrica, utilizzando comunque suoni non da metallari, come stavamo discutendo, ma suoni un po' acidi, insomma, che poi insomma, anche il grande Vinicio utilizza. Anche lui negli anni ha variato i suoi arrangiamenti con l'elettrica. Ma l'elettrica fa bene, cioè chiaramente non proprio che spacca, però insomma una cosa però che può andare, riempie tanto negli arrangiamenti, sì. Basta una pennatina che è già riempito rispetto all'acustica di stare a macinare, c'è poco da fare, sì. Voi mi potete insegnare, l'acustica è più difficile, l'acustica è un po' più ardua, nell'acustica non si può nascondere, l'elettrica no, si può leggermente nascondere, vero maestro, è d'accordo lei? Sì. Anche il maestro è d'accordo. Nell'acustica sì, non nasconde niente. Non nasconde niente con l'acustica. L'elettrica si può, dopo l'elettrica questo che... Però quando un chitarrista elettrico eccede qualche volta nei virtuosismi, è quello il discorso. Sì. Io non eccedo nel Tu non eccedi, benissimo. Okay. Anche perché poche cose, ma fatte bene. Quelle giuste che ci si prova a far così. Bene, adesso suoniamo fino alle 23, poi abbiamo il solito giochetto nostro. Suoniamo che cosa, Roberto e Andrea? Allora, facciamo un altro brano tratto dal disco che si titola La tua rivoluzione. Perfetto. Oltretutto, scusa se Dimmi. Ma è possibile che ho letto oggi nel vostro sito di Eva Mon Amour, La tua rivoluzione? Non ho capito. Leggevo nel vostro sito un articolo su Eva Mon Amour. Sì. Hanno fatto una canzone che si chiama La tua rivoluzione? Sì, mi pare di sì. Ok, bene. Allora, l'ho scoperto stasera. Bene. Questa invece è la nostra. La tua. La nostra rivoluzione. Gli anni spesi in lotte sulle strade che non hai percorso solo per sentirti più impegnato. Gli anni a raccontarci vecchie storie in cui non hai creduto solo per restarci senza fiato. Scrivila tu questa storia che il mio tempo è già passato, quando un brivido correva tra i cortei giù in piazza e le aule vuote. Scrivila tu la tua rivoluzione. Faticare a scavare tra macerie e pietre per far parte di un mondo diverso. Giorni ad accudire i vecchi, bimbi pazzi e gli sfollati solo per ricevere un sorriso. Dettala tu questa storia che il mio tempo è già passato, quando un sogno era di tutti e la vita andava a mille all'ora. Dettala tu la tua rivoluzione. ore che anche oggi passi a un tavolo a inventare versi per cercare ancora di lottare. Le ore sopra il palco per le strade in uno studio vuoto per qualcosa in più da raccontare. Vivila tu questa storia col mio tempo che non vuol passare, il brivido c'è ancora e questo sogno che non sa svanire. Vivila tu questa tua rivoluzione. Radio Veneto. Ricorda le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Roberto, abbiamo toccato anche dei temi sociali praticamente. Abbiamo sfiorato forse i temi sociali. Guardi là di più però. Sì. Due esperienze diverse nei brani. La tua rivoluzione è una rivoluzione interna, però. La tua rivoluzione, devo dire, è molto autobiografica. Esattamente. Quindi sì, proprio il mio vissuto, diciamo. E Guardie Ladri, ovviamente, si citano le grandi rivolte. Certo. e quindi ho voluto dare così una lettura veloce alla storia e insomma a come sono state vissute, insomma, se vogliamo anche un po' in maniera anche un po' ironica, sì, perché sì, questo scappa via, sì, che sei rincorso, però sì, alla fine mi piaceva citare, proprio fare una lettura veloce di tutti gli avvenimenti accomunati dallo scappare via. Certo, cioè. Certo. E nella tua rivoluzione c'è un tema, chiaramente il violino dà una velocità al pezzo, da il nostro maestro Andrea ha dato velocità al pezzo in questa versione live, anche nel disco è così, però ha dato una certa velocità, un certo ritmo. Manca la batteria, dobbiamo sottolineare. Prenditi gli onori in questo brano, il maestro, il riff è suo, tutto sì, di Andrea, è tutto suo, sì, è tutto tuo Andrea, l'idea è stata tua praticamente in questo riff. Sì, mi sembra sì, di sì. C'era la linea armonica, però il l'hai accentuata, sì, la melodia, sì. La melodia, sì, sì, la melodia è mia, sì, sì. È vero, non ricordavo. È vero, te ne ricordavi più. Perché, sì, avevo fatto il giro di accordi, però non mi veniva cosa dire in quel punto lì, per cui è subentrato la mano del maestro. Voglio chiedere questo, Roberto. Tutti questi pezzi sono nati, c'è un pezzo più vecchio, un pezzo più giovane nell'arco dei pezzi della carovana? O sono tutti nati contemporaneamente o quasi? No, non sono nati tutti contemporaneamente. Alcuni, come dicevo prima, hanno anche una certa età. Hanno anche un paio d'anni. Sì. Ad esempio, di sicuro All'Op è uno dei più vecchi. Più vecchi. E anche Il matrimonio di Clochard, che sentiremo dopo. Ma c'è stato qualcosa rimasto nel cassetto che per motivo diverso, anche appartenente al primo disco, che non è mai stato utilizzato? Appartenente al primo disco no. No. Però un paio di cose che volevo inserire in questo sono ancora lì. Ancora nel cassetto, sì, pronte per un prossimo. Pronti, sì, speriamo. Le suonate dal vivo queste cose, oppure no? No, sono ancora lì, che matureranno. Benissimo, sì, sì. Okay. Ok, sono le 23, l'ora precisa per fare il giochino dei tre dischi da portare su un'isola deserta che abbiamo fatto tempo fa, ma si rinnovano le cose, le idee si rinnovano e le scelte si rinnovano. Roberto si rinnovano. E Andrea. Maestro, comincio io? Oh, vai maestro. Primo disco, Il viaggio dei 12 corde. Secondo disco, La carovana. No, sto scherzando. Beh, insomma, una no, però sì, in effetti. io non riesco a riascoltarmi, faccio molta fatica. No, in effetti è vero. Sick as a Brick. Ah, dei Jethro. Come mai Jethro, Andrea? Ma mi sono sempre piaciuti. Di Anderson, la sua, la personalità, esatto, ma sono sempre, ma penso di ripetermi in quello che avevo detto anche la volta scorsa che ci siamo visti, ho sempre avuto una certa passione, diciamo, per la musica anche progressiva degli anni 70. E quindi ci metto i Jethro Tull sicuramente. Che lui ha distrutto, rifatto. È rimasto solo uno, beh, tu lo sai, della band originale, perché li ha distrutti tutti, li ha allontanati tutti. Lui e basta, doveva essere solo lui. Personaggio così, è un personaggio incredibile. C'è poco da fare, però continua ancora adesso a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. È vero, quindi, è vero. È venuto anche recentemente al quel festival folk che fanno ogni anno in provincia di Pordenone. Ma anche dalle nostre parti. Anche dalle vostre parti. Ariolo. Quindi un personaggio di grandissima levatura. Sì. Poi secondo, vai. Secondo, ci mettiamo un CD di musica classica, perché comunque c'è, almeno la mia formazione proprio dal punto di vista scolastico è quella, viene da lì, e ci mettiamo la nona di Beethoven. È una cosetta da niente, praticamente. Poi terzo, una cosa italiana, ma mi ripeto, ragazzi. Vabbè, ripeti, cioè, lo sappiamo che aveva sempre parlato dopo, lì. Vorrei andare a confrontare per vedere se ho detto. Esatto. È il maestro. Il maestro Franco Battiato. Che periodo? Qualcosa di Battiato. Andrea, che periodo del maestro Franco Battiato? Beh, il periodo, diciamo che, adesso non mi voglio portare i primi dischi sperimentali tipo Fetus, Pollution, sulle corde di Aries, insomma, quelli lì, no? Dai, un po' complessi, anche se molto interessanti. Infatti. Ma diciamo, portiamo la voce del padrone. La voce del padrone. Ma sì, portiamo la voce del padrone. Sì. Anche, e poi in un'isola deserta, e comincia proprio il disco con Summer on a Solitary Beach. Perfetto, quindi è proprio esatto. È diventato un classico. Va benissimo. Quindi il disco della voce del padrone, che vendette all'epoca più di 1 milione di copie. Sì, fu un record. Un record assoluto. Nell'80 forse, 80-81. Sì, l'Emmy fu molto soddisfatto. Sì. Etichetta di Battiato. Dimmi, Roberto, tocca a te. Niente, vado io, non mi ricordo assolutamente cosa avevo detto non importa. L'altra volta. Potremmo riascoltarle nel podcast. Esatto. Però sì, ovviamente queste domande fatte in periodi diversi, con ascolti assolutamente diversi, perché ovviamente io penso a quello che sto ascoltando questo momento. Non l'ho mai abbandonato, però in questo momento, per il fatto che mio figlio è super appassionato, sto ascoltando Springsteen giorno e notte. Il boss fa sempre bene alla salute. Sì, e quindi lo sto riscoprendo, ho recuperato praticamente tutta la discografia. E quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 13 mesi. Ah, perfetto, siete il boss. Sì, sembra strano da dire, però è così. Ah, ma io gli metto sul concerto il DVD di Springsteen e lui è capace di rimanere un'ora inchiodato a guardarsi. Bene. Una bella cosa. Sì. E che disco mi porterei dietro? Non lo so. Sarei indeciso tra Nebraska per i momenti assolutamente solitari. Esatto. Sì, dai, direi Nebraska, perché gli altri li ascolto talmente tanto che forse quindi quello è forse quello che ascolto di meno, ma forse quello che ha qualcosa da dire di particolare, se vogliamo. Benissimo, Nebraska del boss. Quindi quello sì. E ecco, poi un altro disco che ultimamente ascolto tantissimo, perché mi piace veramente tantissimo, la colonna sonora del film Into the Wild. Eddie Vedder da solo in acustico, con lo strumentino, esatto. Quella colonna sonora lì, a parte il film, è spettacolare. Lui è bravo. Scusami, sì. Colonna sonora del film, io parlavo del disco dopo. Quello che dopo, ha fatto. Ukulele Songs. Anche quello è molto significativo. Sì. Però tu parli di Into the Wild. Secondo me non è molto particolare Ukulele Songs, ma non è a livello di... Della Into the Wild. Into the Wild è veramente bellissimo. Sì, ha sì, fatto d'accordo. Un capolavoro. È stato molto bravo. Ma lui è molto bravo già per se stesso, anche nei Pearl Jam. Sì. E poi, se il maestro è andato a portarsi dietro un disco di musica classica, io mi porterei dietro un disco dei Dubliners. Quindi un gruppo folk, assolutamente folk irlandese. Ma la musica italiana. La musica italiana, io per questo giro lo lascio a casa. Dai. È già prosciutto, è Battiato, è già tutto. Per cui con questo lascio a casa. No, perché alla fine, dai, i Dubliners mi riportano sempre in quell'atmosfera di cui, insomma, abbiamo parlato un po' tutta sera. Per cui, insomma, ci vuole. Perché i Dubliners, come gruppo abbastanza ortodosso, se consentita l'espressione? Assolutamente ortodosso.

e quella quando, i famosi concerti che hanno fatto Godot. Splendida. Però voi l'avete fatta bene, sentita, è stato molto divertente. Nonostante, nonostante il maestro abbia avuto delle perplessità. No, no, no, beh, scherzavo. No, nonostante solo due strumenti acustici, sì, anche noi facciamo la versione presa dalla versione della PFM. Dai, insomma, cerchiamo di renderla anche se... Diciamo che la sentiamo, quando la suoniamo la sentiamo. Certo, sì. È un pezzo che attira, che trasporta indubbiamente. De André era un grande genio, indubbiamente un personaggio straordinario. E Il Pescatore è un pezzo molto molto interessante. Ho letto che avete suonato, ve lo chiedo perché ve l'avevo chiesto tempo fa, avete suonato anche con i Fiamma Fumana, un gruppo che io ricordo molto piacevolmente e non so che fine abbia fatto adesso. Ha fatto fine, non esiste più. Era molto interessante, secondo me. No, è stata una cosa particolare perché praticamente è stata la prima esibizione con il batterista. Ah, ok, ho capito. La prima volta che ci siamo allargati da duo acustico, ci hanno chiamato ad aprire questo concerto. Io conoscevo Alberto Cottica, il fisarmonicista, e ci hanno chiesto appunto di andare ad aprire il concerto di Fiamma Fumana. E per cui abbiamo detto: abbiamo già un po' di pezzi registrati con basso e batteria, chiamiamo un batterista. Certo. Quindi non c'era il basso, per cui una versione un po' così strana, certo. Però è stata una bella serata, insomma da lì è un po' nato tutto il discorso anche di allargare il gruppo, arrivare ai quattro praticamente. Esatto, sì. Avete suonato, come abbiamo detto precedentemente, tanto. Io leggevo qua 300 concerti all'epoca, quindi non so quando siete arrivati adesso. Anche di più. Sì. Quindi il live è una cosa fondamentale, sia in versione, come abbiamo detto prima, acustica, sia in versione allargata, però dà sempre piacere suonare. Se nei mesi estivi è ancora meglio perché si gira per le piazze, si suona, ma anche nei mesi invernali trovate sempre qualche spazio, secondo me. È fatica. Come mai, secondo Roberto Andrea, è così fatica adesso trovare uno spazio per concerti vostri, di musica vostra? Mi sono trovato, apro una parentesi, non abbiamo mai cercato tanto nell'inverno, perché d'estate l'inverno va lavorato, esatto, certo. Cerchiamo anche proprio di lavorare con quello, per cui d'inverno, insomma, quando arrivano le chiamate, allora andiamo. Però adesso, col fatto della promozione del disco, sto proprio cercando, insomma, di organizzare l'invernale. E alla fine la tecnologia è un'arma a doppio taglio. Cioè, cosa vuol perché dire? Una volta c'era il parlare direttamente con una persona, per cui se eri bravo un po' con la dialettica, riuscivi a strappare una serata qualcosa. Adesso telefoni al locale, loro immediatamente ti dicono: ah sì, bene, mandami pure tutto via email. Per cui anche se sei bravo con la dialettica, è finita lì. E quindi sì, non è sempre facile, anche perché tanti locali, purtroppo devo dire, hanno già la loro lista di nomi e fanno un po' fatica ad aprire a nuove situazioni. A nuovi insediamenti, chiaramente. Peccato. Però insomma, dai, non si molla mai. No, quindi, si va sempre avanti, questo certo. È importante. 23-14, non so cosa ci sia in scaletta nella scaletta del disco, non me lo ricordo. Del disco? Numero? Che numero c'è, Michele? 8, c'è il numero 8. Allora, no. Finalmente la famosa tarantella di cui parlavamo prima. Esattamente, questa variazione sul tema che hai introdotto. Sì. Questo brano si intitola Il Circolo dei Pescatori, che è un locale che veramente esiste, in quel di Cervia, dove abbiamo suonato un'intera estate. Bene. Tutti facevamo settimanale, tutti i giovedì sera eravamo a suonare, ed era bellissimo perché si suonava in acustico all'esterno sui tavoloni, per cui era proprio una situazione da baracca. Ogni volta incontravamo gente di un po' tutte le nazioni, ed è stato veramente bello. Poi non sto a continuare il racconto, perché lo venite a sentire nei concerti, perché il racconto va avanti, anzi va un bel po' avanti, per cui vi lascio la colina in bocca, per cui verrete a sentirlo ai nostri concerti. Intanto, insomma, vi ascoltate il pezzo. Ok. Al circolo dei pescatori, trovi pesce, vino d'ori, facce stanche la mattina, al bancone tipi da galera, due lanterne per la sera, quattro chiacchiere e un caffè. Entra al circolo dei pescatori, reti, funi, mappe, noli, mani svelte giù in cucina. Voce allegra ai tavoli di legno, gente che ha lasciato un segno, ma c'è spazio anche per te. Perché allo spuntar del sole issa in mare la sua vela, per chi ogni giorno ancora sfida le onde il suo destino, per chi del silenzio ogni minuto ne fa un amico vero, per chi sceglie la via delle stelle e alza il calice che il mare può aspettar. C'è la Paola che comanda, con la Vale la sua ciurma, con le birre da portare. Vino al tavolo del presidente, sguardo fisso sorridente, pensa e fuma ancora un po'. Fuori col violino e la chitarra, trovi delinquente ardente, buona musica per ballare. Eros coi suoi nani da giardino, che ravviva il mercatino, con la Marilyn e Charlotte. Perché allo spuntar del sole issa in mare la sua vela, per chi ogni giorno ancora sfida le onde il suo destino, per chi del silenzio ogni minuto ne fa un amico vero, per chi sceglie la via delle stelle alza il calice per brindar, perché all'acqua, al vento, al sale dedica una vita intera, per chi parla coi gabbiani e vede il cielo più vicino, per chi parte innamorato e sogna un paio di occhi scuri, per chi torna alla terraferma alza il calice che il mare può aspettar. Perché allo spuntar del sole issa in mare la sua vela, per chi ogni giorno ancora sfida le onde il suo destino, per chi del silenzio ogni minuto ne fa un amico vero, per chi sceglie la via delle stelle alza il calice per brindar, per chi all'acqua, al vento, al sale dedica una vita intera, per chi parla coi gabbiani e vede il cielo più vicino, per chi parte innamorato e sogna un paio di occhi scuri, per chi torna alla terraferma alza il calice che il mare può aspettar. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Quindi abbiamo detto prima, Roberto ha aperto 12 corde, hanno aperto ad altre esperienze, anche questo tipo di esperienze, sì, musicalmente parlando, chiaramente. C'è tarantellona. La tarantella serve da movimento, da brio, non dico che sia le cose, la giga irlandese, ma nel suo piccolo può essere una giga irlandese, può essere certo, cioè un movimento, un pezzo molto famoso, molto, cioè provoca piacere nel sentirlo, questo è chiaro. Quindi è importante, fondamentale. Sì, sì. Ok, sono le 23:19, abbiamo ancora parecchio tempo per cercare di capire musicalmente, di suonare, ma io voglio capire un'altra cosa. Tutti i pezzi abbiamo detto che sono stati arrangiati, sono stati con delle tecnologie diverse, tu sei riuscito a costruirle praticamente tutti i pezzi. Una volta, adesso si usa così, ma è giusto secondo te usare la tecnologia? Ma questo si fa per perdere tempo o meno, perché va meglio? Una volta si suonava in modo diverso. Ma esistono assolutamente, e per fortuna, i gruppi che si trovano in sala prove, e le famose session in sala prove, e da lì saltano fuori i pezzi. Capita anche a noi, ma penso che sia normale per tutti, sai, partire con un giro, un altro ti viene dietro, l'altro col violino ti viene dietro, certo. E quindi si magari parte un'idea da lì. Però secondo me, per come è costruito questo album, gli arrangiamenti sono abbastanza ricercati, tutte le voci degli strumenti che si sentono non sono a caso, di contorno, ma sono tutti esattamente pensati e studiati, per cui, per come avevo in testa io il pezzo, è un po' brutto da dire, però insomma mi sarebbe veramente piaciuto che insomma, per me il pezzo doveva suonare così, e quindi insomma è andata così. Poi non è detto che alla fine insomma la sala prove serve tanto, almeno a noi serve tanto per le idee, perché anche solo perdere, che poi non è persa, ma stare le mezz'ora davanti a un caffè a discutere su un argomento che non c'entra niente con la musica, come dicevo l'altra sera per la presentazione, è già da lì saltano già tante idee saltano fuori. Secondo me, quando quattro musicisti si incontrano anche davanti a un caffè a una birra, le idee saltano comunque fuori, anche se non musicali, anche se nella fine della serata sicuramente qualcosa è rimasto. Esattamente. A proposito di disco, abbiamo parlato che il disco è uscito da qualche giorno, o esce domani, hai detto? È uscito ieri. Il 13. Se uno fisicamente lo vuole avere, come fa? Allora, richiede il tuo sito, il vostro sito. Fisicamente lo si trova, è distribuito da Edel, per quindi cui si può trovare nei negozi, ovviamente nelle grandi distribuzioni, certo, quindi certo. Non so se si può fare pubblicità, sì. Però insomma Comet, sì, Fnac, Feltrinelli, i grandi centri. Altrimenti, se avete un negozietto di musica a voi fidato, basta richiederlo e comunque lo recuperano, o altrimenti online si trova su tutte le più grosse piattaforme, per cui iTunes, CBS, Amazon, eccetera eccetera, ma la cosa più importante, ai nostri concerti. Quello è fondamentale, fondamentale, quindi ci sono, perché lì possiamo anche autografarvelo, che sennò è un po' fatica. Sempre il tavolino, come facevamo un tempo, con tutti i dischi vostri, il famoso banchetto. Esattamente, il vostro disco precedente e questo qua è il famoso banchetto, e serve, è fondamentale. Sì. Sito non l'abbiamo ancora citato, il sito vostro. Dillo tu maestro, così parli un po'. www.12corde.it. Molto semplice, sì. 12 col numero, Col numero. Sì. Qui là si può trovare tutto, cosa si può trovare dentro il sito? Sul sito c'è tutto, la nostra biografia, i nostri concerti, un po' di ascolti, un po' di video, le nostre belle facce, tutto. Cioè, insomma. Quindi completo, cioè se vuole clicca. È abbastanza completo. Sa tutto di voi. Sì, una cosa in più invece che c'è sulla nostra pagina Facebook invece, ci sono le foto di quasi tutti i nostri concerti. Ah, bene. Perché ci piace fotografarci ai nostri concerti, per cui trovate le foto di quasi tutti i nostri concerti. Al disco, oltre a voi quattro, chi ha collaborato? Come musicisti, chi ha collaborato? Guido Guidi. Che in verità non si chiama Guido, ma si chiama Gabriele. Gabriele Guidi, che è un percussionista della provincia di Cesena, che ha suonato la tamborra nel pezzo precedente, nel circolo dei pescatori. Sì. Quindi la tamborra che avete sentito nello strumentale era suonata da Gabriele Guidi. E poi ha collaborato nei cori Daniel Ursini, che è il ragazzo che possessore dello studio di registrazione. Dove avete registrato? Esatto. Tecnico, diciamo. È il nostro tecnico fonico. E coproduttore del disco. La produzione è vostra allora? Produzione, sì, è nostra. Assieme a questo Daniel ragazzo. Ha dato un po' di idee mentre registravamo, sì. È una cosa interessante, è fondamentale. Ci sono sempre le idee per trovare qualcosa. Sì. Ok, suoniamo adesso che cosa, Roberto e Andrea? Allora, suoniamo il brano che, come dicevi prima, era in programmazione durante la settimana. Sì, che per un mese adesso andrà in programmazione. Esatto. E ho scelto io, perché a me è piaciuto particolarmente, aveva un andamento lento, romantico, anche crepuscolare, possiamo dire questo. Sì. Si chiama L'addestratore di rondini ed è l'unico pezzo del disco che non canto io, ma che canta il maestro. Ah, questo è molto, molto positivo allora. Per cui sentirete la voce del maestro. Un anno è passato, il campo sfiorito, quassù nel rifugio mio di tempo ne ho, ma il mio apprendista da un po' mi sta a guardare, che la primavera tra un po' arriverà. Il cielo è più chiaro, il freddo alle spalle, quassù il calendario funziona così. Di nuovo la vita, la giusta per sbocciare, e ancora una rondine vedranno volare. E come ogni giorno, il giorno si sveglierà ed un'altra rondine libererò. E dal mio rifugio alla valle lei volerà, tra venti e montagne nel viaggio la guiderò, così primavera di nuovo sarà. Laggiù per le strade la vita scorre in fretta, quassù le mie rondini continuano a dormire, e penso che ormai sia giunto il momento per me di lasciare il rifugio quassù. Ma il tempo è passato, il campo sfiorito, chissà in che altro posto domani sarò. Ma il mio apprendista da un po' mi sta a guardare, la prossima rondine con lui volerà. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Il molto positivo era riferito al fatto che in questo modo ha dato a Roberto il turno di riposo. Andrea, hai dato il turno di riposo per sì, il pezzo. Giusto. Ok, è un pezzo molto bello, molto significativo. La stesura del testo è tua o il maestro ha partecipato anche al testo? Sì, sì, sì, no, qua l'ho scritto io. Anzi, è un testo che dà abito a diverse interpretazioni. Sì. Infatti una sera, proprio durante una prova, il batterista ha detto ma quel brano lì, io l'ho interpretato in questo modo. In verità voleva dire tutt'altro, ma non svelo, perché è bello che ognuno insomma ci trovi nel testo quello che il suo significato, esatto, esattamente legato alla sua esperienza. È una ballad, possiamo dire. Sì, sì, assolutamente, sì, sì, una tipica struttura da ballad, quattro semplici accordi, sì, sì, sì, assolutamente. Poi il violino dà una caratteristica alla ballad, un po' crepuscolare, un po' decadente, sì, leggermente decadente. Sì, sì, sì, il violino ha quella funzione lì. Ha quella funzione, esattamente. E dal vivo come l'ha fatto? fate con gli altri due strumenti, il basso e la batteria? L'accentuate, ecco, oppure la somigliate vicino all'album praticamente? Un poco diversa, questo voglio dire. Beh, comunque si aggiunge il basso e la batteria a un certo punto, diciamo non subito all'inizio, no. Quindi c'è un po' un crescendo dal punto di vista dell'arrangiamento. Diciamo, vabbè, la ritmica è questa, la ritmica è questa, però c'è appunto un ripieno, cioè, maggiore. Si accentua, ecco, di più. Sì, no? Sicuramente, sì. Benissimo. Ok, 23:30, siamo sempre in diretta, parlando piacevolmente con Roberto e Andrea dei 12 Corde, e stiamo presentando il loro nuovo album insieme alla Carovana, che è uscito ieri, quindi freschissimo di stampa, e noi abbiamo un grande onore, stiamo ascoltando in anteprima assoluta, è una cosa molto molto positiva. Li ringraziamo di essere venuti da Argenta fino a qua stasera per presentarvi. Grazie a voi per averci ospitato. Allora, sì, abbiamo parlato dei concerti, abbiamo parlato qualche altra data, hai qualche data da dire, da ripetere per i nostri ascoltatori? Data importante, imminente, se vogliamo quella di lunedì prossimo, è il concerto più imminente che abbiamo. Suoneremo a Imola durante la festa della CGL. Ci sarà il segretario nazionale, sì, penso. Sì, Susanna Camusso presente, e niente, quella è la prossima data. Dopodiché, come ripeto, stiamo organizzando un po' l'invernale, per cui per lanciare il disco, esatto, per cui dopo il resto lo trovate, sì, nel lo sito. Trovate sul sito, esattamente, sì, quindi sì, la data più prossima sarà lunedì, esatto, però, lunedì. Come si svolgono i concerti dei 12 Corde, la struttura? Abbiamo parlato di coinvolgimento, la scaletta prevede i pezzi più lenti prima, dopo, al centro, come va? È un misto. Sì. Cerchiamo ovviamente di dare la botta iniziale, certo, e ci teniamo la botta e la botta finale, ovviamente. Dopodiché nella serata capita di tutto, c'è il momento un po' intimo, diciamo, il momento più rock, il momento più da ballo. Variamo molto. Cambiate scaletta spesso, allora? Non è sempre una scaletta prefissata, o è sempre la stessa scaletta? Più o meno la stesura della scaletta è quella. I punti rimangono più o meno fissi. Poi di tanto in tanto ci piace così variare. Ti faccio questa domanda, perché una band che è venuta qua qualche tempo fa cambiava ogni volta la scaletta. Ma adesso non siamo così pazzi ancora. Cambiava ogni volta la scaletta. Anche perché non siamo tutti come Springsteen, che ce lo possiamo permettere così. Avere, non so, 300 pezzi in repertorio e decidere all'ultimo momento, adesso facciamo questo. Anche perché comunque ci piace pensare bene alla scaletta, certo. Perché un buon concerto si basa su una buona scaletta, esatto. Per cui, si può rischiare fino a un certo punto, esatto, è buono pensarci un minimo prima. Si può anche provare i brani nuovi nel concerto dal vivo, oppure no, secondo voi? Sì. Il disco nuovo ne avete provati? Adesso questo è uscito, ma prima, quando dico, prima dell'incisione del disco, i brani che già erano predisposti, erano già formati? Qualche brano. Brano era già in esecuzione, lo provate proprio nel concerto. Proprio dal vivo, magari ha preso delle direzioni che non erano pensate inizialmente, e che poi, insomma, è stato poi così inciso nel disco. Per cui, insomma, serve tanto anche eseguire dei brani nuovi, perché, insomma, prendono una è importante, spinta. Prendono, cioè, praticamente suonandoli prima, perché, cioè, entrare in studio col brano, diciamo, privo di una sua, come si dice, fisionomia, esatto, cioè suonandolo prima sicuramente il brano viene ad avere un'anima, ho capito, e quindi proprio nelle esecuzioni, anche live, anche nei concerti, secondo me i brani, quelli che già da un pochino di tempo abbiamo cominciato a portare in giro, sono quelli che hanno un'anima un pochino più, diciamo così, sostenuta, diciamo, sono quelli un pochino più, quelli già un po' più maturi, ecco. Credo, secondo il mio assolutamente è così. Benissimo. Poi dopo gli altri si matureranno, certo. Ecco, perché il discorso un po' che si diceva prima, no? Delle esecuzioni live, di aggiungere qualche cosa, di sperimentare. Secondo me nel live questo deve essere così, perché ma sennò non si deve andare oltre, però. Beh, ovviamente sempre, cioè, rimanere in un certo schema, quello certo sì. Cioè, se io improvviso, diciamo, qualche cosa, o comunque in un contesto di un certo tipo di musica, cioè, nel nostro caso non metterò sicuramente delle scale, delle armonie jazzistiche, diciamo, e quindi sicuramente, cioè, stando dentro certi limiti si può fare sicuramente, sì. Anzi, secondo me si deve fare. Si deve fare benissimo. Allora, se veniamo a qualcosa d'altro, quindi si deve fare un altro pezzo musicale. Okay. Cosa? Facciamo un'altra cover. Benissimo. La seconda e ultima cover della serata. Questo è un traditional irlandese, ne abbiamo tanto parlato, che è stato ripreso nella Pete Seeger Session Band del boss di Springsteen, e si intitola Mrs. McGrain. Ok. Mrs. McGrath, the surgeon say, would you like a Sullivan or something? With the scarlet coke and peacock hair, Mrs. McGrath, would you like that? With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. Now, Mrs. McGrath live on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with a song from far away. Oh, Captain D, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living on his he day? With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. Up contact without any legs, and in the place to wooden pegs. She kissed him dozen times on two, and said, my God, that is you. Now were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Was you walking upon the sea, turning two fine legs away? With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. I wasn't drunk and I wasn't blind when I left my two fine legs behind. Cannonball on the 5th of May, turn mine to find legs away. My teddy boy, they win you cry, your two fine legs with your mother's pride. Stumps of Andree with you at all, why did you run from the cannonball? With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. Funny words I do proclaim, live on the blood on the mother's pain. I dread of my son, he used to be the king of America and this old navy. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey, tuda hoora hoora hey. With your tuda hey, for liddy hey. Oh, Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, sicuramente il boss è stato soddisfatto se vi ha sentito, sicuramente c'è un botto vostro, Fox not dead, cioè il folk non deve assolutamente rimanere vivo, assolutamente deve essere così, perché il folk vuol dire anche movimento, abbiamo già detto, ripetuto, e lo ripetiamo un'altra volta, movimento è anche piacere di sentire cose. Anche, sì, anche tu in certi momenti, certo. Il box era duro nel senso positivo, era pesante, ma non pesante perché dava fastidio, perché era così, anche come tematiche. Sì, sì, sì, il folk non deve morire, non è morto, come diciamo, come gridiamo nella nostra presentazione del disco che trovate online. Ed è così perché mi è capitato di trovare in certi locali, guardando un po' appunto sempre per il discorso di prima, di trovare in un locale, guardiamo un po' chi suona in quel locale, che genere fanno, nella pagina Amiamo, c'è scritto amiamo il folk, amiamo il pop, eccetera, eccetera. Quindi come in primo posto amiamo il folk, allora sono rimasto stupito, vado a vedere chi suona in quel locale. Ma di folk ne ho visto veramente poco. o forse un'idea un po' distorta di quello che è il folk. E insomma, dai, noi portiamo avanti il nostro folk, almeno a noi ci sembra abbastanza genuino. Poi, sì, insomma, è importante che portate il vostro folk, vostro, inediti, questo è importante, è una cosa che portate, cioè sono pezzi vostri, non sono delle sì, abbiamo ripreso qualcosa, sì, di qualche traditional, eccetera, però è importante che sono vostre cose, vostri inediti, vostra produzione, quello è importante, fondamentale. No, se vogliamo proprio il folk, anche quello che si ballava diciamo nelle nostre campagne, alla fine c'era una ripresa della tradizione, e poi magari nei pezzi cantati una sera si cantava una strofa in un modo, una sera si cantava in un'altra, per cui era rinnovato ogni volta, sì, vogliamo. Cioè un acquisto anche di cose forse dimenticate. Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi dai, insomma. Dai. Cerchiamo di portarla avanti in questo modo. Poi il live è praticamente la fotografia di questo folk che non muore mai, assolutamente. A proposito di suonare, avete suonato anche con i Modern City Ramblers, hanno fatto un disco di recente, un po' di mesi fa. Sì. Cosa ne pensate della produzione ultima dei Modern City Ramblers? Chi parla? Tu hai parlato fino adesso parli tu. È un po' diversa. I Modena, dai, sono nostri amici, possiamo dirlo, perché dai, ci è capitato diverse volte di suonare di aprire i loro concerti, poi insomma qualcuno lo conosciamo personalmente, per cui insomma sono delle buonissime persone. E la produzione ultime due o tre produzioni, possiamo dire che si sono un po' standardizzate. Sì, esattamente, leggermente. Ma la via del folk rock, del folk combat folk, così chiamato, poi esiste ancora in Italia, secondo te, Roberto? Ci sono i famosi, siamo tutti noi figli dei Modena. Esatto, questo possiamo essere. Se vogliamo, che siamo in tanti, ovviamente non solo loro, era così. Però il Modena aveva una certa caratteristica, sì, all'epoca. Sì, loro hanno portato lanciati qualcosa che fino a quel momento era molto nascosto. Sì, vero, hai ragione. Loro l'hanno portato a galla e in tanti li abbiamo seguiti. Sì, sì, e fortunatamente è così. E quindi, dai, dal vivo sono ancora molto molto bravi, questo possiamo dirlo. Poi le produzioni, si sa che può capitare, soprattutto in un genere dove i giri di accordi sono sempre gli stessi, vero? si fa in fretta a ripetersi. Io ricordo che il primissimo disco di Modena era un disco assolutamente irlandese al 100%. Sì, sì, assolutamente sì, sì. Irlandese. Era proprio riff irlandesi, vero. Importati nelle loro canzoni, ma proprio riff originali irlandesi. Assolutamente. Disco innovativo per l'epoca. Era la prima band che faceva in Italia certe cose. Chiaramente poi, come tu giustamente hai detto, poi cioè si sono allargati, allargati. Sì. Però l'idea iniziale era un'idea molto interessante. Certo, sì. Decisamente. Ok, suoniamo? 23:45, abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Sì, sì, sì. Facciamo il viaggio, ne abbiamo parlato. Facciamo il viaggio, il vostro disco precedente, molto bello, molto significativo. quindi questa era la title track, okay, del disco. Facciamo anche un attimo una piccola, è interessante anche questo, una piccola accordatura in diretta. Bello, chitarra, violino. Infatti, ecco, fammi sentire un sol. Bene. Tutto questo è molto folk qui. Sì. E un viaggio ci racconta di un'altra storia andata, di un giorno che è finito e di un altro che è già qua. Quando chiusa nel baule una canzone resterà tra la gente che ridendo se ne va. E seguo la mia via, e seguo il mio destino, e seguo il mio violino. E come ogni sera con tre note e mezza pinta, la magia vuol ripetere e nel ballo qualche cuore incanterà tra la gente che alla vita se ne va. Resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire, guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto. La strada ci racconta di un'altra sera andata, di un'altra come tante, e un'altra arriverà a far vibrare una chitarra e a far sorridere due occhi come i tuoi già facevano anni fa. Non suono per due soldi e non canto per il pane, ma per questa vita che mi spinge un po' più in là. Se i tuoi occhi torneranno a sorridermi di nuovo, forse un senso tutto questo ce l'avrà. Tra la gente che distratta se ne va, resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire, guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto. Ci racconta di un altro giorno andato, di una storia che è finita e di un'altra che è già qua. Quando fuori dal baule una canzone suonerà tra la gente che ballando resterà. Resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire, guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, sì, Andrea, fa molto caldo, sì. Fa molto caldo, è veramente un caldo incredibile stasera, però si vede che siete uomini di spettacolo, di palco, i pezzi, quelli forti, quelli che scaldano l'ambiente, già non c'era bisogno, però sì, infatti, dicevo, non c'era bisogno, però in questo caso alla fine si vede, vengono fuori i pezzi movimentanti nel senso positivo del termine, perché sì, è giusto sì, che sì, sia così. Un concerto deve concludersi sempre con dei pezzi che fanno girare la gente che si alza, si balla, fa un po' di tutto. Sì, sì, la gente deve andare a casa che c'è ancora voglia di ascoltare. Sì, certo, hai voglia di ascoltare, di stare là, sentirsi ancora. Certo. Sì, sì, bello, sì, bello, molto positivo. Questo era il primo pezzo da viaggio, cioè un pezzo da viaggio, che è il titolo dell'album precedente. Che importanza ha avuto Viaggio per la conoscenza, per l'allargamento del vostro audience, se mi è consentito l'espressione. Il visto, disco, dici? Sì, visto che ha avuto numerose risorse positive dal punto di vista della critica, della conoscenza, eccetera. Eh beh, il disco è senz'altro un mezzo per farsi conoscere, perché per quanto sia, se non sei uno dei grossi nomi che gira, certo, che gira per radio o per televisione, insomma, è un po' fatica, insomma, diffondere la propria musica. E il disco è un prodotto confezionato dove dentro c'è tutto il nostro mondo, per cui la gente, chi ci ascolta, insomma, in quei 10 brani può un po' conoscere tutto il nostro mondo. Per cui, insomma, ci sono state una scossa positiva. Sì, sì, poi ci sono state fatte richieste dagli Stati Uniti, sì, sì, tramite il sito, gente che ci ha chiesto il disco, appunto, da varie parti del mondo, per cui, insomma, alla fine in quel paesino disperso del Kansas, mi sembra di ricordare, c'è uno che ascolta i 12 corde. Bene, bene, insomma, una cosa molto molto interessante. Sì, sì, sì. E quindi, dai, serve a quello il disco, dai. Sì, le vie della musica sono sconfinate, hanno confini, vanno avanti dappertutto, quindi arriva, il messaggio arriva sempre. Chi vicino, chi lontano, non importa, ma arriva, quello è fondamentale. Anzi, abbiamo scoperto anche che un ragazzo di Bergamo, mi sembra, comunque di quella zona, un ritornello di una canzone che del disco precedente, La Formiga, che è un ritornello popolare dalle, certo, nostre parti, anche nella loro tradizione c'è, esiste, una formiga in una versione un po' diversa, però anche ma questa, la formiga comunque è una tradizionale, non è proprio solo delle nostre parti. Sì, sì. Comunque c'è un tradizionale, diciamo, che si direi che si nazionale, trova, comunque almeno del nord Italia, ecco, cioè, in versione leggermente differente, sì, magari, sì, la, sì, base, sì, è sempre, sì, quella praticamente, sì, sì, sì. È giusto che sia così, giusto, è normale, secondo me. Sì, sì, sì. Poi, vabbè, l'idea del folk, di portare in giro la propria tradizione, e in quel momento lì si incrocia con un'altra tradizione, per cui, insomma, è stato bello capire questo, insomma. Benissimo, io proporrei questo, abbiamo 6 minuti, salutiamo adesso, poi fate 2 pezzi per arrivare fino alla mezzanotte, siete d'accordo? Perfetto. Grazie ai 12 corde di essere arrivati da Argenta, di aver suonato quasi 2 ore piene, sì, 2 ore, con, sì, noi, quindi sono stato molto contento, abbiamo presentato La Carovana, il loro nuovo disco, ci sarà un prossimo, io spero di sì, in ogni caso ci saranno molti concerti da, sì, seguire. Quello sì, quello assolutamente. Se vuoi ricordare un momento il sito, www.12corde.it col numero, oppure su Facebook cercate 12 corde, sempre, esatto, col numero. Grazie a Michele Ottosoni in regia, grazie ai 12 corde, ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana per altri appuntamenti live. Buonanotte a tutti, e adesso i 12 corde ci proporranno 2 pezzi live. 2 pezzi live, li presento anche così capiamo, sì, un po' l'ordine. Questo si chiama Buonanotte, giusto per darci la buonanotte, poi, insomma, finiamo col botto, e quindi Il matrimonio di Clochard a seguire. Ok. Passerà anche il tempo dei dolori, resterà negli occhi il mondo visto e le stagioni. Oggi è un altro giorno che il tramonto si riprende, solo un altro ancora da sommare a tutti gli altri. Scende già la notte sui giorni tristi e i corpi più stanchi. Scende questa notte sui tanti dubbi e i mille pensieri. Scenderà la notte sui passi fatti e gli errori di ieri. Scenderà la notte sui passi che oggi rincorrono te. Ti protegga il suono del silenzio e che il sonno ancora ti riporti ai tempi andati, quando quella voce ti diceva letto i bimbi e ti accompagnava fino ai sogni del mattino. Dormi amore, dorme la campagna, dorme la pianura ed il lavoro dei contadini. Dormo in queste braccia troppo deboli per rialzarsi, fa che sia un rifugio a te ad un altro freddo inverno. Scende già la notte sui giorni tristi e i corpi più stanchi. Scende questa notte sui tanti dubbi e i mille pensieri. Scenderà la notte sui passi fatti e gli errori di ieri. Scenderà la notte sui passi che oggi rincorrono te. Scende già la notte sui giorni tristi e i corpi più stanchi. Scende questa notte sui tanti dubbi e i mille pensieri. Scenderà la notte sui passi fatti e gli errori di ieri. Scenderà la notte sui passi che oggi rincorrono te. Ad un illustre clochard come me, che in mano solo un giornale, resta una foto sbiadita del viso che il tempo si porterà via dai miei sguardi impacciati. Là sulle panchine di Place de l'Étoile, quanti minuti in silenzio a immaginar la sua voce che mi diceva: ricorda clochard, Parigi serve a cambiare. Vedrò più i suoi capelli, il suo profumo mai più sentirò. Chi vuoi che cambi uno come me? E allora se la via è per tutti, champagne, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata, yatatata. Oggi si sposa Sabrina, ormai mi dovrà segnare. Rimasto senza il mio amore, che cos'ho? Ho una bottiglia per brindare, così rivedo il suo sguardo e mi croce.